Ed eccola qua la cometa di Halley con Irene Grandi, questa bella canzone del Festival di Sanremo che è stata premiata soprattutto per gli ascolti frequenti da parte degli ascoltatori. Sei pronto Maurizio? Prontissimo. Lancio la sigla? Vai, vai. Eccola qua. Blu Radio Sera. Allora, come si anticipava prima all'inizio di trasmissione, c'è l'appuntamento con l'intervista della sera del martedì. In questo caso diamo il benvenuto ad Ezio Guaitamacchi. Buonasera Ezio. Ciao. Buonasera Ezio. Con il quale parliamo della sua uscita alquanto straordinaria, un libro bello, bello grosso, un tomo davvero fantastico, da dove si possono recuperare appunti preziosi per tutte quelle che sono le nostre bellissime canzoni degli ultimi anni. In particolare stiamo parlando delle 1000 canzoni che ci hanno cambiato la vita. Allora Ezio, il titolo innanzitutto. Il titolo è la conseguenza però anche un po' del libro, nel senso che mi era stato chiesto dalla casa editrice, che aveva una serie di titoli legati al numero 1000, no? I 1000 luoghi da visitare, i 1000 film più belli della storia, bla bla bla, una cosa sulla musica. In realtà c'era un libro americano un po', come dire, confuso dal punto di vista delle scelte, mescolava intanto generi che difficilmente stanno insieme, cioè la classica e la musica pop, il jazz e la musica folk, ma soprattutto a volte citava degli album, a volte dei concerti, a volte delle singole canzoni. La mia idea era stata quella di farlo invece sulle canzoni, partendo dall'epoca moderna, cioè dagli anni 50, e arrivare fino ad oggi, dando, diciamo, una sopravvalutazione dal punto di vista internazionale alle canzoni italiane, però dandone una valutazione, come dire, ragionevole, essendo noi in Italia, quindi di queste 1000 circa 200, cioè il 20%, sono canzoni italiane. Le restanti 800 circa sono canzoni internazionali, prevalentemente anglo-americane. Che poi, tra altre cose, Ezio, il numero 1000 non è la prima volta che esce da parte tua, perché c'era anche il jukebox del millennio, quei 100 dischi ideali per capire la world music, che mi sono pappato in lungo e in largo, voglio dire, quindi... Mi fa piacere che ti pappi le mie cose, però quella era una collana che era partita con un libro sui 100 dischi ideali per capire il rock, sì, che andò benissimo, è stato ristampato mi pare 4 volte, mm-hmm, e poi diciamo aveva creato un filone su vari mondi musicali, il jazz, il blues, la world music come hai citato tu, anche le canzoni italiane, il reggae, il punk, hard and heavy, insomma è ancora una collana molto ricca, quella era diciamo concentrata sugli album. Questa invece si concentra sulle singole canzoni, e se quella collana che hai citato tu era più, come dire, un percorso storico all'interno di questi album epocali, anche conteneva a volte la ricostruzione del disco, ma anche un giudizio critico, in questo caso c'è molta aneddotica, molte date, molti dati, perché non c'era l'intento di farne un saggio critico, ma semplicemente un libro molto divulgativo nel quale chiunque, anche come dire, il curioso, potesse trovare appunto le canzoni che gli avevano, tra virgolette, segnato, se non cambiato la vita, e ha suscitato anche molti giochini, quiz, è molto basato anche sul ricordo, ecco, ciascuno poi si ricorda la prima canzone con cui ha fatto il ballo, piuttosto che la prima canzone con cui ha dato il primo bacio, eccetera, eccetera. Certo, comunque ognuno di noi, come si diceva prima, mentre ti stavamo chiamando, Ezio, è che ognuno si crea una propria compilation da dove attinge a quella che è stata la sua musica, ognuno ha la propria musica o ne fa propria, diciamo, la parte melodica. Beh, questo era anche uno degli obiettivi, diciamo, magari non il più immediato, però sicuramente uno degli obiettivi auspicati del libro, come quello anche di far conoscere brani bellissimi che magari non tutti ricordano, oppure quello che c'è peraltro anche di segnalare canzoni che hanno veramente segnato dei momenti fondamentali di 50 anni di musica. Ricordo per la cronaca, scusate, tengo che la parte precedente l'ho affidata a quello che per me è il più grande esperto di musica vintage, come la chiama lui, cioè il mio amico Renzo Arbore, che ha scritto di suo pugno una cosa appunto relativa alle grandi canzoni degli anni 30 e 40, tra cui Stardust, che è la canzone che a lui personalmente ha cambiato la vita. Certo, e una cosa interessante, ci sono tante schede ben fatte che costruiscono, che danno il lato B della canzone, parlano diffusamente, la costruiscono, la spiegano, questo è importante secondo me. Sì, però non devi dirlo a me, perché sennò io mi devo autoincensare. No, no, lo dico a me stesso. Io sono stato molto... ma io ascolto e annuisco e divento rotto. Okay. Ma io sono stato soddisfatto perché posso dirti una cosa, Ezio. Mi ha dato una mano anche per fare qualche trasmissione rock che facciamo. Oh, noi. È quello che volevamo. Ecco, quello è importante, è quello. È stato un libro fondamentale per certe idee nostre che suscitiamo, che sviluppiamo a Rock Week. Una cosa che non ti ha detto Maurizio, Ezio, è che è già arrivato a pagina 630. Esatto. Quindi è abbastanza, il libro, ricordiamo agli ascoltatori, ha 925 pagine, però voglio dire, si sfogliano sempre con piacere, anche perché poi all'interno di questo libro ci sono anche le fotografie, certo, quelli che fanno da segnaletica per quando si va nei negozi di dischi poi a recuperare il disco. Pronto, sì, mi senti? E anche si può leggere in modo, come si dice, modulabile, nel senso che uno può seguire un suo percorso oppure andare alla ricerca delle proprie curiosità. Il luogo ideale è il cesso. Da tutte le mail che ricevo, non so se è un complimento ma è un dato di cronaca che vi segnalo, tutte le mail che ricevo, che ho messo la mia email per dire, perché così chiunque può scrivere cacchio non c'è la canzone che mi ha segnato la vita, sì. Ho ricevuto mare di robe, tra cui appunto la maggior parte dicono, sai, al cesso è il posto ideale perché mi sono concentrato, bla bla bla, insomma. Diciamo che ci vogliono delle ginocchia abbastanza solide per tenere quel libro, perché sì, è anche pesantino, sì, voglio dire. Esatto, sì. 1,20 kg, l'altro obiettivo è quello che si è visto sulle balle qualcuno e non avete voglia di leggere, tirato in testa, fate del male. Perfetto, quindi come lasciare il segno con una canzone, anzi, esatto, con 1,000 in questo caso. No, voglio dire, è un'ottima alternativa quindi alla lettura delle istruzioni dei detersivi, che naturalmente si tengono in bagno da qualche parte, vicini comunque, per poterli leggere. Allora, Ezio, noi abbiamo scelto di iniziare con un periodo, il primo periodo da cui prendi per parlare di musica e di questi dischi. Maurizio, abbiamo scelto tre diversi periodi di Ezio: gli anni 60, gli anni 70 e gli anni 80. Io ho scelto Little Wing di Jimi Hendrix. Perché ho scelto Jimi Hendrix? Perché adesso si parla nuovamente di Jimi Hendrix, anche nella tua rivista mensile c'è la copertina su Jimi. Perché secondo te questo rinnovato fascino di Hendrix, che non è mai morto però, chiaramente? Innanzitutto questo è il quarantennale della morte, lui morì a 27 anni il 18 settembre del 1970, e questo quarantennale vede la rinegoziazione del contratto discografico della famiglia Hendrix, che detiene i diritti di tutta la musica di Jimi, e ha fatto uscire appena adesso una sorta di, tra virgolette, registrazioni inedite, che poi sono sempre molto tra virgolette, certo, si certo. Chiamano The Valleys of Neptune, che è appena uscito, per cui quello è stato il motivo della copertina del mio mensile, unito al fatto che abbiamo intervistato la sorella di Hendrix e avevamo una testimonianza esclusiva del biografo ufficiale di Jimi Hendrix, che si chiama Caesar Glebeck, che ci ha raccontato di aver visto, quando lui andò alla Royal Albert Hall a Londra nel 1969 per un concerto leggendario che fu ripreso dalle telecamere ufficiali ma non uscì mai, e si suppone con molta probabilità che uscirà anche questo leggendario live alla Royal Albert Hall per il quarantennale. Quindi questa era la carne al fuoco per il numero del giornale che abbiamo voluto dedicare a Jimi Hendrix. Ricordiamo, il giornale si chiama Jam, quindi non abbiamo ancora citato, si chiama Jam. Non uno qualsiasi, ma Jam, ecco qua. Dovete dirlo voi. L'abbiamo detto noi, l'abbiamo detto. Allora, il fascino imperituro di Jimi Hendrix, io me la cavo con la battuta di Bono, il cantante degli U2, che ha definito Hendrix il più grande genio strumentale del XX secolo. Sicuramente se c'è oggi ancora un'icona assoluta del chitarrismo è Jimi Hendrix. Se c'è un'icona assoluta della stagione dei figli dei fiori, dell'ippismo, della controcultura, è Jimi Hendrix. Se c'è, questo lo aggiungo da appassionato, un personaggio che ha avuto almeno tre livelli di lettura soltanto dal punto di vista musicale, ve ne dico uno: Lui passa la storia come appunto il più grande chitarrista, la chitarra cosmica, l'alieno arrivato sulla Terra. Però provate a pensare alla sua voce. Sentite due battute e riconoscete immediatamente che è Jimi Hendrix. Per non parlare dei backup chitarristici, per non parlare delle sue composizioni e delle canzoni come Little Wing, che sono state rifatte da centinaia di interpreti. Certamente. Io ricordo la versione commovente di un duo di amici, che mi permetto di ricordare ai vostri ascoltatori, che si chiamano Tuck and Patty, che ne hanno fatta una cover fantastica. Certo, hai perfettamente ragione. Giustamente nel libro, nella scheda c'è scritto, e fu anche un grande autore di canzoni, questo è importante, non solamente un bluesman straordinario, un grande autore di canzoni. Quindi volete dirmi che con Little Wings si riuscirebbe a scrivere un altro libro, Ezio? Io penso di sì, Ezio, cosa dici? In che senso? Fare un libro su quella canzone? Su tutte le cover fatte praticamente. Ah, e beh, insomma, sicuramente ci sono state tantissime cover. Stevie Ray Vaughan, che fu certo. Per un certo punto designato come il suo erede, anche lui muore tragicamente per uno sfigatissimo incidente in elicottero, ma sono davvero tante, una canzone bellissima dove, ripeto, al di là degli aspetti pirotecnici della chitarra di Hendrix, ci sono melodia, ci sono delle soluzioni armoniche straordinarie, soprattutto una melodia che rimane in testa e che entra nel cuore del pubblico. Bene, allora abbiamo fatto un bel cappello per ascoltare questa magica canzone di Jimi Hendrix, mentre ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Ezio Guaitamacchi. È uscito da poco il suo libro, che si intitola Le mille canzoni che ci hanno cambiato la vita. Insieme le stiamo commentando e avremo tre interventi con Ezio, e per ognuno di questi un decennio da ascoltare. Quindi dopo un breve spazio pubblicitario ci ascoltiamo la grande canzone di Jimi Hendrix. A tra poco. Focus. L'attualità dal Veneto. C'è un'attualità diversa su Blu Radio Veneto e Focus, la trasmissione in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8:15 minuti, dove la notizia è commentata dagli stessi protagonisti. Vi aspetto. Focus. L'attualità dal Veneto. Torna sabato 13 marzo la 24esima edizione di Artigianato e Scuola. Oltre 3.000 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della terraferma veneziana saranno coinvolte in una gara di creatività sul tema artigianato tra tradizione e innovazione. I lavori prodotti dagli studenti che partecipano al concorso Artigianato e Scuola, promosso dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGA Mestre in collaborazione con il Comune di Venezia, Assessorato Politiche Educative, saranno esposti al Centro Culturale Santa Maria delle Grazie in via Poerio a Mestre da sabato 13 marzo a domenica 21 marzo. La mostra, aperta a tutti i giorni, sarà inaugurata con il tradizionale taglio del nastro sabato 13 marzo alle ore 10:30. Gli studenti partecipanti saranno premiati venerdì 19 marzo al Teatro Corso di Mestre. L'iniziativa vede la copartecipazione di Venezia Opportunità e della provincia di Venezia. She's walking through the clouds to the circus mind that's running wild. Butterflies and zebras are moving, and a fairy tale, that's all she ever thinks about, riding with the wind. Sad, she comes to me, a thousand smiles she gives to me free. It's all right, she says it's all right. take anything you want from me. Anything, anything. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato Jimi Hendrix con Little Wings. Siamo ancora in collegamento telefonico con Ezio Guaitamacchi. Ancora buona serata Ezio e benvenuto nelle nostre frequenze. Ezio, fino all'ultima goccia, come giusto che sia. Fino all'ultima goccia. Poi tu hai citato un aneddoto, il discorso dei dischi, dei master rubati o persi in macchina. Ah, di quell'evento, sì, ma se quante lì, sai, si è sempre a cavallo tra la leggenda e la realtà. La storia del rock da questo punto di vista è straordinaria. Ci sono, ha un'aneddotica infinita e a volte anche il più, come dire, fantasioso sceneggiatore, secondo me, non sarebbe riuscito a mettere insieme tutte le leggende, che molte corrispondono tra l'altro a verità, che si celano dietro ai grandi dischi, ai grandi personaggi e purtroppo anche alle morti misteriose, certo, di molti di loro. Certamente, siamo completamente d'accordo con te. Citiamo l'album, quello sì, del 67, Axis Bold as Love del 67, quindi un album, è come diceva giustamente Flavio, interessante questo libro perché dà la visione delle copertine, è che non è mica semplice questo, la visione delle copertine ti viene subito in mente, ecco quell'album là c'era quel pezzo. Ecco, a proposito di questo, in che maniera un libro così può aiutare l'industria discografica? è difficile, no? Siccome no, l'industria discografica è inaiutabile, perché ha una sorta di, secondo me, tara genetica. Pensate che negli anni 30, a pochi anni sostanzialmente dalla Costituzione, già l'industria discografica urlava al vento: c'è un nuovo mezzo che ci sta portando via la nostra musica, ed erano le radio. Pochi anni dopo pagavano le radio per trasmettere le loro canzoni, poi sono fatti fottere dalle televisioni, poi sono fatti fottere da internet. Quindi io non ho nessuna pietà, se devo dirvi la verità, per l'industria discografica. Ho molta pietà per i musicisti e per tutti quelli che lavorano nel campo artistico. L'industria è quella che sfrutta, lo dico senza retorica, senza cattiveria, però sfrutta le idee e la creatività, per cui se oggi l'industria è in crisi è perché è in crisi anche, sono in crisi le idee ed è in crisi la creatività. Un libro come questo secondo me non ha affatto questa funzione, ha una funzione semplicemente di far passare qualche minuto, qualche ora, qualche momento di allegria o di approfondimento, perché ha tanti livelli di lettura, no? Come avete visto, il vostro è quello dell'appassionato, per cui è un livello di lettura che noi abbiamo ovviamente cercato di accontentare, perché io se sbaglio una cosa passo alla storia per quella cazzata che ho scritto, non per le 930 pagine di aneddoti, date, per cui certo, noi abbiamo cercato quello di fare, ma allo stesso tempo di rendere fruibile la lettura e di raccontare tante storie, tante curiosità e dare date, dati e anche qualche immagine, come avete detto voi, per incuriosire il lettore magari, perché no, fargli andare a recuperare qualche brano che si è perso, qualche brano che aveva ascoltato da giovane, oppure aveva ascoltato attraverso il papà, lo zio, il fratello maggiore, eccetera. È complesso, è difficile proporre a un editore come Rizzoli questo progetto? No, ti dico la verità, come vi ho spiegato all'inizio, questo vi giuro che sono super sincero, non dovrei neanche dirlo, perché farei molto miglior figura dicendo vi ho avuto un'idea della Madonna, sono andato e sono aspettato qualcosa. In realtà è una cosa che mi hanno in qualche modo proposto loro, in maniera un po' generica, come vi ho raccontato, e poi l'ho messa a fuoco proponendogli questo progetto delle canzoni. Però una cosa sulla musica, è stato un rimpallo che adesso non interessa né a voi né agli ascoltatori, perché io volevo fare un altro libro che peraltro ho fatto con un'altra casa editrice e uscirà tra poco meno di un mese, per cui forse se sarete buoni magari mi ospiterete nuovamente. Perché no? A questo punto perché no? Perché no? Possiamo farlo ben volentieri. E a proposito dei tuoi libri, io ho letto quel libro dedicato alla West Coast, mi è piaciuto molto, anni fa, poi è stato ristampato recentemente. Quello che si chiama Figli dei Fiori, Figli di Satana. Esattamente. Sì. Questo altro di cui vi sto parlando ha un taglio simile, si chiamerà Delitti Rock e passa in rassegna 200 casi misteriosi di morti nel campo della musica, rilette in chiave noir, da Robert Johnson sino a Michael Jackson. Adesso mi viene in mente, sparami Brian Johnson secondo. Devo leggere il tuo libro allora. Sì, quello è... Perché Brian Johnson è sempre... ho letto delle cose su Brian Johnson, ma non è mai stato chiarito ufficialmente cosa è stato. No, però nel libro io penso di essere molto vicino alla verità. Ma perfetto, non allora sicuramente c'è una piscina. Semplicemente perché la verità c'è, era abbastanza logica, da molti casi non sono stati ufficialmente chiariti, ma c'è una logica molto molto molto evidente. Ma ne riparleremo in quell'occasione là. Dai. Certamente, ne riparleremo, perché a me interessa, perché il discorso di Brian Johnson non è solamente musica, cioè Brian Johnson era il genio, secondo me, dei Rolling Stone, poi è stato soppiantato, è stato messo da parte, è un discorso molto lungo, ne parleremo. Non ha scritto canzoni, però ricordo. È vero, non ha scritto canzoni, per gli arrangiamenti che faceva lui, li faceva solo lui. Sì, però sai, quando ti trovi di fronte a qualcuno che scrive Satisfaction, Jumping Jack Flash, Painted Black, eccetera, eccetera. Sì, sono d'accordo con te. Grazie il sitar, voglio dire, non è sufficiente. No. Però hai ragione tu, inventò la band, inventò il nome soprattutto. Ti chiede il nome, certo. E all'epoca, io purtroppo ho l'età per ricordarmelo, ma soprattutto ho sorelle maggiori, amiche che me lo ricordavano, il vero duopolio era Mick Jagger, Brian Jones. Certo, è vero. Keith Richards, Keith e Mick arrivarono dopo, ma perché questo ragazzo biondo, anche lui come Jimmy, infatti erano amici, la quintessenza dell'ippismo, era una grande presenza sul palco e molto contrastante con quella, come dire, animalesca, sexy, aggressiva di Mick Jagger, che era allora quello che è oggi. Anche perché dei filmati che mi ricordo, Brian Jones è sempre stato molto composto nel... Assolutamente, però era un ragazzo appunto che aveva un look molto particolare, biondo, questi abiti molto esotici, scoprì per primo gli strumenti etnici, andò in Marocco, certo, insomma, famoso album, grande musica mente, marocchina, una grande sensibilità artistica, però ripeto, non scriveva pezzi, lo so. In ogni caso ci prenotiamo per il prossimo mese con te, perché a me interessa molto questo discorso. Okay. Col libro che uscirà fra poco. Benissimo, intanto ti mancano le altre pagine, devi terminare questo. Saltiamo al 70, Ezio, e ci fermiamo a un classico, che più classico non si può. Io non lo sapevo, l'ho scoperto leggendo il tuo libro. Stairway to Heaven non è mai stato pubblicato in 45 giri. I fortunatissimi che hanno le copie promozionali adesso sono decisamente super fortunate. Beh, hai ragione tu, è proprio un grande classico, addirittura è proprio un pezzo. Io credo che combatta con Smoke on the Water dei Deep Purple come il pezzo più nel quale il chitarrista in erba si cimenta, o almeno si cimentava all'epoca, tanto che proprio fuori onda citavo una scena di un film che non mi ricordo se erano i Blues Brothers o qualche altro film, in cui in un negozio di strumenti musicali nel reparto chitarre c'era un cartello in cui si diceva per favore non suonate Stairway to Heaven quando provate le chitarre, perché quella riffettina di chitarra acustica di Jimmy Page era una cosa, come dire, che nella quale tutti, ma io me compreso, da chitarrista all'epoca in erba, si cimentava, perché era una canzone molto suggestiva, molto romantica e come sempre sembrava un veicolo ideale per rimorchiare le ragazzine dell'epoca. È verissimo. La canzone peraltro giustamente passa alla storia perché è uno dei brani più completi dell'album più venduto e più di successo delle Zeppelin, non dico il più importante, ma sicuramente quello che ha lasciato dal punto di vista generale la traccia più grande ed è le Zeppelin 4. Ricordo a tutti, e per voi è superfluo, che i primi quattro album delle Zeppelin non avevano un titolo, passano alla storia come il primo, il secondo, il terzo e il quarto. È verissimo. E poi dobbiamo ricordare un grandissimo Bonzo, un grandissimo assolo di Bonzo in questo pezzo. Sì, c'è poco da fare. Ed è strano che quella che ancora oggi sarebbe forse, almeno parlo degli Stati Uniti d'America, il più grande affare nel mondo del rock, cioè una possibile reunion dei tre Zeppelin più Jason Bonham, che è il figlio appunto, certo, di John Bonham, non va in porto per motivi che di volta in volta cambiano. Adesso l'ultimo motivo era che era Robert Plant che non ha accettato la cosa, e lì sono i due, perché John Paul Jones se lo chiamano va evidentemente, però non si capisce perché, ma sarebbe veramente, come dire, è l'ultima grande reunion che manca. E non ci sarà sicuramente, cosa dici Ezio? Non la faranno mai? No, a me sembra strano che non ci sia, come mi sembra strano che Peter Gabriel non si unisca ai Genesis, però siccome ognuno ha le proprie carte da giocare, se le gioca bene, io ricordo quante volte Sting nelle conferenze stampa chiedeva esplicitamente a noi giornalisti di evitare la domanda quando si riformano i Police. Oggi, quando si sono riformati, ha chiesto per piacere di non chiedergli perché si sono riformati. Quindi però Sting, che è uno intelligentissimo, l'ha fatto nel momento giusto, e la tournée reunion tour mondiale dei Police è stato un affare, un affarone, possiamo dire, un sold out completo in tutte le parti del mondo. Però bello, è un bel concerto, certo, parla, certo, uno che non è mai stato un fan sfegatato, ma un concerto impeccabile. Perfetto, allora ricordiamo ancora i nostri ascoltatori che stiamo parlando con Ezio Guaitamacchi, è uscito da poco il suo libro che si intitola Mille canzoni che ci hanno cambiato la vita, e stiamo ripercorrendo con lui i vari decenni che sono descritti anche nel libro con tutte queste belle canzoni. Allora Ezio, vi posso regalare una chicca su Stairway to Heaven? Ma certamente, anche due. Sì, no, questa qua ve la dico perché è un'esperienza personale, sì, per dirvi la popolarità della canzone. C'è un luogo in Australia, sulla costa occidentale dell'Australia, che nel mese di agosto vede uno strano e particolarissimo e direi unico fenomeno atmosferico per una serie di rifrazioni. In alcune serate in cui c'è la luna piena, questa luna si riflette sulle acque del mare, che credo che sia l'Oceano Indiano. Adesso io ho un vuoto di memoria sul nome di questa località, però è una località che potete trovare facilmente se guardate le cartine. Io ho fatto questo viaggio magnifico da Darwin, attraversando il Kimberleys, che è la regione, e arrivi inevitabilmente in questo unico luogo sulla costa. Bene, e questo particolare fenomeno viene soprannominato Stairway to Heaven, che vuol dire la scala verso il cielo, perché la luna proprio si manifesta come delle rifrazioni e sembrano piccoli scalini che, visti da lontano, sembra proprio una scala che si dirige verso la luna. E la cosa sensazionale è che quando il fenomeno succede, la popolazione, i turisti, vengono avvisati dal suono del didgeridoo, che avete in mente, quello strumento degli aborigeni australiani, certo, quello strumento monocorde bordonico, che è un ramo di eucalipto che è stato mangiato dalle termiti e che si suona come l'oboe o l'auned d'Assardi, cioè con la respirazione circolare, per cui hai un suono ininterrotto molto suggestivo, e si esce fuori, è un'esperienza fantastica, quasi come ascoltare i Led Zeppelin. Nel frattempo sono riuscito a trovare la località, Ezio, si chiama Broom. Bravissimo, ecco, fantastico. Broom, è proprio descritto benissimo. Peraltro Broom vuol dire scopa in inglese, ecco, sono stupido perché mi ricordavo che c'aveva un nome strano. Ok. Vabbè, allora ascoltiamo Stairway to Heaven di questi fantastici Led Zeppelin, okay, poi torniamo a commentare ancora il libro album dirlo, Ezio, di Ezio Guaitamacchi, che si intitola Le mille canzoni che ci hanno cambiato la vita. Tra poco. Radio

Spot. Blu Radio Veneto SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale, denominata Blu Radio Veneto, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni che avranno luogo nei giorni 28 e 29 marzo 2010. Per informazioni, rivolgersi alla concessionaria di competenza territoriale. Per la provincia di Padova, Nord-Est Pubblicità SRL, 049 87 52 765. Per la provincia di Venezia, CID SRL, 041 95 99 99. Per la provincia di Treviso, Publivita SNC 0422 576 904. www.bluradioveneto.it, sezione pubblicità. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora su Blu Radio Sera, buonasera ancora a tutti voi, sono Flavio Bilato, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara e invece in collegamento telefonico Ezio Guaitamacchi per la presentazione di questo libro davvero formidabile, si intitola Le mille canzoni che ci hanno cambiato la vita e ne stiamo parlando giustamente con l'autore. Ezio, facciamo una piccola parentesi, oltre a essere direttore di GM, ossia il nostro collega, collega radiofonico, sei anche direttore del Master di Giornalismo e Critica Musicale, una cosa molto importante a Milano. Ci spieghi un momento che cosa è questa cosa? Intanto si svolge il CPM, il Centro Professore Musica, che è la prima e forse più importante scuola di musica in Italia, fondata e diretta da Franco Mussida, chitarrista leggendario della PFM, al quale io mi ero rivolto anni fa per una cosa che non c'entrava nulla con questo Master, nel senso che avevamo fatto un libro proprio sui grandi chitarristi e volevamo che Franco facesse l'introduzione. E quando sono andato aveva appena cambiato sede il CPM ed era una sede bellissima, che è quella attuale, e lì mi è venuto in mente di dire, ma hai un sacco di corsi su tutti gli strumenti, non hai dei corsi sulle altre professioni della musica? E lui si è entusiasmato subito e ha preso al volo questa mezza idea che gli avevo buttato, e quindi da 8 anni a questa parte c'è questo corso che è un vero e proprio master, perché dura 9 mesi, è abbastanza intenso, ha una media di 12-14 studenti per ogni anno, la maggior parte dei quali, finito il master, vengono seguiti personalmente da me e cerco di esaudire i loro desiderata, cercando di introdurli nel mondo della musica. Io sono molto contento, anche se insegnare non è certo la cosa che so fare meglio, però ho cercato di farlo nel migliore dei modi, soprattutto mettendo a disposizione la mia esperienza, tutte le mie conoscenze nel settore, intendo dire anche di tipo personale, per cui i ragazzi hanno un sacco di esperienze interessanti, conoscono artisti, partecipano a conferenze stampa, vedono come si realizza un disco, vedono come funziona una radio, una televisione, eccetera, eccetera, e soprattutto seguono un corso molto intenso, ripeto, che prevede anche molto lavoro a casa, perché in classe non si scrive, non si produce nulla se non le operazioni collettive, che sono proprio la produzione di un programma radiofonico e la realizzazione di una newsletter, che è quella poi della scuola, del CPM, si chiama CPM Magazine. Ecco, questo è quanto. Bene, Ezio, abbiamo parlato di mille canzoni, ma tra queste mille canzoni, quali sono le tue preferite? Vedi che devi partire per un viaggio improvvisamente. Cosa ti butti di fretta e di furia dentro la valigia? Ammesso che l'MP3 non esiste. No, è la domanda che mi hanno fatto tutti e io non ho, devo dirvi la verità, una canzone che mi ha cambiato la vita. Ho provato anche a pensarci, perché veramente questa credo che sia la 150esima intervista che faccio, ma non vi dico una male. E quindi ho tutte le volte che cazzo gli dico. Allora ho preso questa strada, che è quella più diplomatica. C'è una grande artista che è nel mio cuore, che lei mi ha cambiato la vita. Io ho sognato per anni di sposarla, non ci sono riuscito. Quando l'ho incontrata gliel'ho chiesto, ma respinto. Però le sue canzoni sono la miglior colonna sonora della mia vita. Lei si chiama Joni Mitchell, è un'artista canadese, certo. È per qualcuno l'equivalente in gonnella di Bob Dylan. E prendete, scegliete voi qualsiasi canzone dall'album Blue o dall'album Ladies of the Canyon e mi farete felice. Benissimo, benissimo. Se lo sapevamo prima, la preparavamo. Volevo preparare qualcosa da blu, non ci ho pensato. Molti lo fanno, ma è proprio captatio benevolentia. Ho capito. Voi andate per la vostra storia che state andando bene. Adesso passiamo al discorso della musica italiana. Io ho scelto un pezzo degli anni Ottanta, ma parliamo, Ezio, della musica italiana, la scelta delle 200 canzoni italiane. Come ti dicevo, è una scelta che è vista, diciamo, da un punto di osservazione internazionale, è chiaramente esagerato. Da un punto di osservazione italiano credo che invece sia ragionevole. Noi abbiamo cominciato con Modugno, che è proprio il punto di svolta della canzone italiana e che è il personaggio che introduce una nuova concezione nel modo di fare canzone in Italia. E abbiamo concluso con il brano tratto di un mio grande amico che si chiama Mauro Pagani, che ha inciso, come sapete, quel disco l'anno scorso per raccogliere fondi per i terremotati dell'Abruzzo, sì, eccetera. Che poi quel pezzo Domani era un pezzo bellissimo che lui aveva inciso in un suo album solista. E diciamo, in questo excursus di 50 anni abbiamo voluto mettere tutte le cose più importanti, anche la musica leggera, cioè sarebbe stato facile barcamenarsi per noi tra De André, De Gregori, piuttosto che la PFM o gli After Hours, ecco. Però abbiamo voluto fare una panoramica ampia che ovviamente comprende i due più grandi personaggi, quello più appunto legato alla canzone d'autore che è Fabrizio De André, quello più legato alla musica pop di qualità che è stato Lucio Battisti. Però dentro ci sono, dentro, di fianco, sotto e sopra, ci sono tantissimi altri personaggi e soprattutto tantissime altre canzoni che hanno comunque inevitabilmente cambiato la vita di molte persone. Considerate che per noi il sostantivo canzone, per dargli una certa dignità, ha voluto dire che noi abbiamo escluso i tormentoni estivi, alcune sigle televisive e anche le colonne sonore e i pezzi strumentali. Quindi abbiamo voluto dare, come scrivo nella prefazione, questi paletti nella nostra scelta. E abbiamo rispettato la stessa cosa anche per la canzone italiana. Poi qualcuno ci ha accusato di aver messo Albano e Romina, faccio per dire, di aver lasciato fuori magari delle cose più, sicuramente più alte dal punto di vista artistico, però abbiamo seguito anche quel criterio di popolarità e di diffusione dal punto di vista appunto, come dire, anche quantitativo. Quindi sì. Si trova un po' di tutto, ecco, dal pezzo appunto rock, alla grande canzone d'autore, al pezzo di musica leggera, alle cose che stanno un po' di qua e un po' di là. Sì, noi abbiamo scelto un tormentone del 1981 che è Teorema, che forse molti non lo sanno, ma è stato scritto assieme ad Herbert Pagani, un autore straordinario, purtroppo adesso dimenticato. Sì, dimenticato, così come in qualche modo è dimenticato anche l'ottimo Marco Ferradini, certo, che poi è l'interprete del brano, che non mi fa fatica a dire che è un nostro amico, una persona carina, un vero appassionato di musica, e quella canzone che tu giustamente hai detto ha segnato un po' quell'epoca, però certamente non è una delle canzoni più che tutti si ricordano, anzi è una canzone che se forse non avessimo messo nessuno se ne sarebbe accorto. Mi fa anche piacere che voi l'abbiate selezionata un po' per Marco stesso, ma anche perché avete beccato una di quelle canzoni che per noi ha voluto dire inserirla significava togliere qualcos'altro, perché poi la critica o di solito le domande che mi fanno è: ma perché non hai messo quella? Bellissimo il libro, però, no, ecco, che però vuol dire che c'è un po' di dimostrazione da parte del lettore o di chi si confronta con me, un po' di spirito competitivo, no, che per l'amor di Dio va benissimo, però ricordatevi che poi nel momento in cui fate questi lavori è un lavoro di un anno che prevede, sì, una squadra di persone con battaglie e discussioni sulla scelta, sul trovare dei criteri, perché non è fatto assolutamente in maniera casuale. Bisogna stabilire dei criteri, bisogna fare una grande ricerca e decidere, e non è un'impresa facile, soprattutto che cosa tralasciare, cosa lasciare fuori. E quindi pensiamo di aver fatto un lavoro, secondo noi, il più oggettivo possibile, nei limiti ovviamente dell'umano, e ripeto, quando poi succede come in questo caso che voi segnaliate una canzone come Teorema, a me fa piacere perché dico, vabbè, questi il libro l'hanno guardato con attenzione, hanno e sanno di cosa stanno parlando, ecco. Bene, tac, allora... ho fatto anche il complimento perché grazie, bene, adesso grazie. Allora, visto che c'è tempo di gestazione di un anno, aspettiamo anche le 1000 canzoni che hanno cambiato la vita ai critici che hanno criticato Ezio Guaitamacchi questa cosa. Vabbè, allora Ezio, grazie di essere stato. Infatti aggiungere noi. Due robe velocissime. Prego, certo. Allora, una che dicevo prima fuori onda, che la casa editrice è molto contenta dei risultati del libro e mi ha già commissionato un libro analogo sui concerti, per cui per Natale uscirà i 1000 concerti, che non so come sarà il titolo esatto, che ci hanno cambiato la vita, che hanno fatto epoca, che sono da ricordare, che ci hanno fatto sognare, come volete voi, però i 1000 grandi concerti svolti dal primo vero evento di rock and roll fino alle cose ultime. Ci sarà Lotus? Cosa? Lotus ci sarà? In che senso Lotus? Lotus è il disco di Santana. No, ma stiamo segnalando i concerti, non i dischi, i concerti. Ah, i concerti, scusa. Bisogna vedere a quale concerto ti riferisci, però noi parleremo dei grandi concerti, Bob Marley a San Siro, Pink Floyd a Venezia, Ligabue al Campovolo, Vasco a Imola, adesso ti ributto lì a caso, poi ce ne sono 100.000, certo. No? Bob Dylan a Newport nel 65, i Beatles sul tetto della Apple, insomma un altro percorso storico sul filo della memoria. Seconda cosa, voglio dirvi che mi piacerebbe molto per il citato progetto dei Delitti Rock. Io mi sto dilettando da qualche tempo a fare spettacoli in cui racconto la storia del rock in un impianto teatrale e sto preparando questo nuovo progetto teatrale legato al libro dei Delitti Rock, che però verrò a presentare sicuramente nel Veneto, spero a Padova. Nelle Feltrinelle, insomma, nelle varie librerie in cui si presenterà il libro. Ultimissima cosa, purtroppo non ho potuto mettere molti artisti italiani emergenti che sarebbe giusto segnalare. Ve ne cito due che sono vostri concittadini e che per modi diversi ho entrambi nel cuore: il bravissimo Alessandro Grazian, che è venuto qua a Milano, che è venuto a Milano un sacco di volte. Petrina, che è un talento straordinario, che avete lì e che dovete. Anche lei è venuta a suonare da noi recentemente. L'ho detto lo stesso, così l'hai fatto bene. Dagli altri, ok? Benissimo. E poi ci si dimentica di quelli che hai sotto casa, che invece sono bravi, poi. Ok? Invece, benissimo. Benissimo. Invece, allora, tutto. Grazie Ezio di essere stato con noi. Ci hai veramente deliziato la serata, perché parlare di musica è per noi da sempre vibrazioni alquanto positive. Allora, ricordiamo ancora il titolo del libro: 1000 canzoni che ci hanno cambiato la vita, per Rizzoli, Ezio Guaitamacchi. Mi prenoto per il prossimo mese per l'uscita del tuo nuovo libro, ok? E io ci sarò. Benissimo. Okay. Benissimo. Allora, grazie Ezio. Buonanotte a tutti. Grazie a te. Buonanotte. Allora, terminiamo la conversazione con Ezio presentando appunto il brano citato prima, quello di Marco Ferradini, davvero fantastico, Teorema. Cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà. E sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore. Non farti vivo quando la chiami, fallo come fosse un favore. Fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora si vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà. E allora si vedrai che t'amerà, chi meno ama il più forte, si sa. No, caro amico, non sono d'accordo. Parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Sarai d'accordo con me, senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è. Radio Sera. Blu Radio Sera. È un'altra delle canzoni che non si dovrebbe mai tagliare, quella di Ferradini con Teorema, perché alla fine c'è un assolo di chitarra davvero formidabile. Era il 1981, Marco Ferradini con Herbert Pagani scrivevano questa canzone. Teorema, sì, ancora un pezzo fresco nonostante gli anni, è stato riproposto, come abbiamo detto in diretta con Ezio, è stato riproposto recentemente, qualche anno fa, in un film di Marco, di Aldo Giovanni e Giacomo, quindi è stato rilanciato per l'ennesima volta. Adesso rilanciamo, noi non dobbiamo rilanciare niente, questo è un album che ha fatto storia. È stato il primo album di world music nel vero e proprio senso del termine. Sì, appunto si citava prima anche quell'altro lavoro che appunto aveva scritto Ezio Whitamacchi in collaborazione con Ivo Franchi e in più anche con collaboratori tipo Todesco e Vites, che poi sono stati collaboratori anche in questo libro che non abbiamo citato. Sì, esattamente, prima. Poi Todesco e Vites sono collaboratori storici di Gem, il giornale che cura, la rivista che cura Ezio Whitamacchi. Ecco, proprio all'interno di questa world music c'è proprio un capitolo, adesso lo sto sfogliando cercando di trovare, dove si parla appunto di questo lavoro di Paul Simon che è Graceland. Un lavoro che ebbe un successo strepitoso, solo negli Stati Uniti vendette 5 milioni di copie. Fu un disco di grandissimo successo, fu un disco diverso, fu il primo esperimento di world music nel vero senso del termine. Poi arriveranno tutti gli altri più tardi, dopo però. Sì, tra altre cose proprio in questo disco dove compaiono per la prima volta un gruppo direttamente sudafricano. Esattamente, un gruppo sudafricano. Che si chiamano Ladysmith Mombasa. Esattamente. Ladysmith perché venivano da Ladysmith, che è una cittadina australiana, e Mombasa, che era Lascia L'ascia di guerra. Sì, l'ascia di guerra. Ecco, sì. In quel caso lì, Ladysmith Mambazo, con dei cori assolutamente interessanti, un po' soporiferi, anche se andiamo ad ascoltarli in automobile, quindi non è conveniente farlo. Se ascoltiamo un disco solo unicamente dei Ladysmith Mambazo, però ascoltandoli assieme a Paul Simon fa tutto un altro effetto. Sì, abbiamo scelto You Can Call Me All. Ci sono due interpretazioni su questo titolo. Una interpretazione, sempre ha detto all'epoca Paul Simon, ho scritto questo pezzo perché il padrone di casa, io ero una festa, mi chiamava sempre All alla fine, All. Mentre c'è un'altra interpretazione che è questa, che All sarebbe come alcoholic, cioè un alcolizzato. Difatti il protagonista di questa storia alza un po' il gomito. Queste sono le due interpretazioni di questo pezzo, questo singolo dall'album. Che poi sempre questo singolo dall'album aveva anche un video che era assolutamente interessante, vedeva protagonista, oltre a Paul Simon, anche un famoso attore che era alto il doppio di Paul Simon, adesso mi sfugge il nome. E vediamo, però... Chevy Chase. Eccolo là, Chevy Chase. Esattamente, che... arrivò al numero 4 nei singoli in America questo pezzo. Fantastico, allora perché non ascoltarcelo? Ok, eccolo qua. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. We'll be right back. Radio Sera. Blu Radio Sera. You Can Call Me All, questo è Paul Simon del 1981, davvero bello quel pezzo di basso intramezzo verso la fine, veramente entusiasmante. Decisamente un grande pezzo che fa bene ricordare, riascoltare dopo un po' di tempo. Erano parecchi anni che sentivo più questo pezzo, però Sempre piacevole. Beh, Paul Simon è un grandissimo autore, non lo scopriamo noi sicuramente stasera. No, assolutamente. Comunque ricordiamo che è un album Graceland che, pur nonostante l'età, 1981, è venduto ancora in tutti i negozi di dischi a prezzo pieno. Chiaramente non si trova sì. Mai in offerta speciale. Chiaramente sì, perché si vende ancora. In Italia hanno questo modo di fare, i vecchi dischi che si vendono ancora non sono in offerta, no, è sempre a prezzo pieno. Vabbè. E difatti è per questo che dopo molti non vanno nei negozi di dischi, certo. Se lo ordinano su internet, e quindi risparmiano almeno la metà. Dove magari in Malesia non è molto ascoltato, per cui se lo fanno arrivare da lì, ormai le spese di spedizione costano pochissimo. Allora, sempre sfogliando questo libro che un po' ci ha entusiasmato, non potremo leggerlo tutto all'interno della trasmissione, però sicuramente c'è spazio per un altro pezzo prima di lasciarvi con Rock Wave, l'onda del rock, anche in questa serata. Sì, abbiamo scelto un pezzo da Peter Gabriel. Perché abbiamo scelto Peter Gabriel? Innanzitutto Peter Gabriel è uscito recentemente con un album di cover molto bello, anche se alcune cover non sono bellissime, tipo Heroes di Bowie, che l'ha fatta un po', beh, non alla Peter Gabriel, al suo livello, a mio parere. Però questo è un altro discorso. Abbiamo scelto un pezzo di Peter Gabriel, dal primo Peter Gabriel post Genesis, Salisbury Hill. È un pezzo che è il primo singolo tratto dal famoso album di Peter Gabriel, si chiamava solo Peter Gabriel. Ti ricordi come i Led Zeppelin veniva Peter Gabriel 1, 2, 3, 4? Sì, la stessa cosa. Ricordo, e soprattutto ricordo che questo disco l'aveva fatto subito dopo aver mosso delle forti critiche su Phil Collins. Esattamente, che, non veniva... sì, che l'aveva sostituito sia come l'aveva sostituito come cantante. Chiaramente Phil Collins non è il cantante, non è Peter Gabriel. I Genesis dopo con Phil Collins probabilmente hanno avuto più successo dal punto di vista discografico, dal punto di successo di vendite dei dischi, però la qualità, secondo me, escluso i primi due album con Phil Collins, poi gli altri sono andati molto a cadere, sono andati del pop alla pop nel senso più largo del termine. Diciamo che l'ultimo vero dei Genesis può essere considerato Second Out, dove c'era già la voce di Phil Collins, anche se c'era ancora un po' dell'elettricità. Sì, beh, è un album live, mi pare, Second Out. Sì, Second Out esattamente, live. Sì. Io lo definisco come Trick of Tail, l'ultimo canto del cigno musicalmente parlando. Poi chiaramente hanno fatto tanti altri dischi e tanti altri grandi successi, però Trick of Tail, a mio parere, sono ancora Genesis, anche se non c'era più Peter Gabriel. Però insomma, chiusa la parentesi, ritorniamo a Peter Gabriel come solista. Questo è il primo singolo, è un pezzo molto folk, molto, molto intelligente, molto bello, molto fresco, molto pimpante, nonostante sia del 1977, sono passati molti anni, ma quell'alone folk, quella parla di libertà, è una cosa meravigliosa secondo me. Qualcuno ha scritto che ricordava la battaglia del 496 d.C. in cui Re Artù affrontò e sconfisse i sassoni, questo Salisbury Hill. Non so se sia vero, però alcune fonti... Forse sono i sassoni. Sì, pardon, cosa ho detto? I sassoni. Non c'entra. I sassoni, importa, i sassoni. Sono quelli che trovi fuori. Esatto, i sassoni. Che ti aspettano dopo questa sottile battuta. Sì, i sassoni sono stati sconfitti nel 496 d.C. da Re Artù. Qualcuno parla così, però... Beh, il pezzo è molto bello, quello è importante. Bene, allora ascoltiamo Peter Gabriel. Noi sassi, non c'entra. I sassoni. Va bene, lo ascoltiamo e poi torniamo per i saluti. Thank you. up on Salisbury Hill. I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Salisbury Hill, questo Peter Gabriel del 1977, tra altre cose nel 2003 ad opera della EMI era uscito anche un doppio lavoro in CD che raccoglieva sia le hit di Peter Gabriel sia le miss, considerate così, non tanto per essere delle modelle quanto per essere delle canzoni forse dimenticate di Peter Gabriel. Tra le canzoni solide di Peter ricordiamo Sledgehammer, poi Don't Give Up, che era stata anche cantata con quella di Wuthering Heights, come si chiamava? Kate Bush. Kate Bush, poi ancora Games Without Frontiers, bellissima, Burn Your Up, e poi ancora anche Biko, ricordiamo. Anche Biko, sì, sì, sì. Ecco, è stato anche lui, come Paul Simon, protagonista anche della world, sì, music, perché, visto che ha un'etichetta che proprio porta avanti questo discorso musicale. Sì, adesso non ricordo il nome esatto, però Non ricordo, c'è un qualcosa che parla di lui all'interno di questa etichetta, sfugge a tutti e due, non importa, non è grave. Tanto c'è internet, esatto, se uno può vedere, lo cerca su internet e lo trova subito. Allora Maurizio, che dire, è stata una trasmissione che poi si è evolta in una certa maniera, nessuno di noi se lo aspettava, grazie anche a Ezio Waitamaki che ha partecipato attivamente alla trasmissione, anzi, per dire, l'ha condotta lui. Esattamente. Noi abbiamo fatto i paggetti in questo caso. Esattamente. Sì. Bene, allora appuntamento a presto allora. Eh sì, per domani sera ragazzi, domani sera alle 22 Plan de Fuga, gruppo di Brescia, un po' genesiano se ti interessa Flavio, bene, sì. Un po' genesiano, quindi sì. Non dico proprio genesiano al 100%, ma qualche scampolo di Genesis, di musica americana, è un disco interessante, si chiama In Minute mi pare, sì, In a Minute, e però l'album è molto interessante perché ha tanti generi fatti molto bene anche dal punto di vista dell'organizzazione sonora, organizzati bene, arrangiati bene, un bel disco e un bel concerto sarà sicuramente. Benissimo, allora quindi appuntamento domani sera su Rock Wave qui su Blu Radio Veneto. Ricordiamo che è un appuntamento non solamente da sentire ma anche da vedere, ci sono le webcam puntate sui protagonisti dell'evento di domani sera. Tra le altre cose vedo montata anche una webcam dalla parte della regia, per certo, cui sì. Anche il regista adesso mitico sarà... Michele sarà... ma ce la fa la webcam a prenderlo tutto non lo so. in tutta la sua forma, non so, vabbè, non importa. Comunque lasceremo a domani l'ardua sentenza, soprattutto speriamo che la lente della webcam riesca a coprirlo. Sì, certo. Sì. Bene. E allora è proprio tutto da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Un bonne nuit, quindi una felicissima notte. Vi lasciamo con la programmazione di Rock Wave, l'onda del rock. Ciao. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special.